chiude il 2017, si apre il 2018. Mai come in questi mesi il mondo ha bisogno di essere raccontato. Nuove crisi che si affacciano all'orizzonte, vecchi focolai che tornano ad animare il Medio Oriente. Radio 24 dedica 3 appuntamenti speciali per non perdere la bussola e orientarsi meglio nel mare delle notizie di est. Religione, politica, economia criminale, conflitti e uno sguardo sull'anno che verrà, il 2018. Il mondo è sempre più piccolo e io sono qua per raccontarlo. Sono Giampaolo Musumeci, vi aspetto con Nessun Luogo Lontano il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio dopo il GR delle 8 del mattino. Naturalmente qui su Radio 24. A posto Luigi? Avete preso nota? Vi aspetto.